La perdita della corriera. Speziando l'abito agli estivi fumigatori, dal vispo e vecciato condotto interpoderale, sollevarsi il tuo braccio mozzo ai primi fari, lo vedo. Quanto la corriera inganna il suo assiale di luce quasi perpetua al broncio del tuo viso, l'ultima dell'estate, l'ultima della sera, svanendo dalla sua vernice che rallenta il passo a un brusco fossato di tuffo che non dispera, aggravando di forza il ragno della tua miopia. Sei troppo sgranato, ti dicevano gli occhiali, di tenerteli sempre con te quando sei via, che da solo ti fiacca il serale nei suoi strali, in quel fendente grasso ti sciogli più smarrita, sbandando al fine silenzio delle prime cene, una bellezza cupa, incompiuta, inavvertita per la violenza di provincia che ti intrattiene, dentro il chiaro della maschera che perde giorni e avvizzisce alle spine variegate dei visi, raggelandoti mura crollate ai tuoi interni, dispersi come crocieri appena uccisi, nella paralisi di una carcassa di piume che incombe nella stenosi di una nuova secca, allontanarti senza affondarti, senza fiume, tra le retine del crepuscolo e la risacca. Si accordano d'agosto i viali vivi alla luna, nella scheggia ferrosa di seme al corpo vuoto che dilata l'inarcatura della tua bruma in una tosse nervosa che inside il funesto nel tuo trillo di neon, con la pioggia in un soffio e quella strana foschia di lampi in cantilene, che dall'impromptu di sorsate e di ronzio uno swing di ciclisti incorpora alla tua scena, per poi oscurare, schiarendoti al viaggio vespaio di un incauto, stordito anonimo di sereno.